Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Buongiorno, questo è Ferry Boat e io sono Enzo Argante, il traghettatore. Questa puntata di Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale, è dedicata alla pubblicità in realtà, anche se noi l'abbiamo chiamata advertising e lo capirete nel corso della trasmissione. Con i nuovi mondi dell'economia sociale, della trasformazione, per amore o per forza, che la crisi si sta portando sui mercati, sicuramente la pubblicità ha subito delle crisi anche importanti e forse sta cambiando pelle. Chi è la persona più adatta per potercene parlare? Ovviamente è Nielsen Media Research, Paolo Duranti, che ne è amministratore delegato. Buongiorno Paolo. Buongiorno. E che da tempo immemorabile segue gli andamenti della pubblicità. E quindi intanto la prima cosa che dobbiamo chiederti è: effettivamente c'è stato una pesante caduta in termini percentuali degli investimenti pubblicitari? La flessione della pubblicità dall'inizio del 2009 è molto forte, parliamo di un circa 20% rispetto allo scorso anno. C'era già stata una frenata importante sulla fine del 2008, ma purtroppo questo tende a confermarsi per il 2009, e anche se ci sarà una breve ripresa, o meglio un rallentamento della flessione verso fine anno, chiuderemo l'anno con un tasso sicuramente a due cifre, stimiamo intorno all'11-12%. Che è una flessione che non avevi mai visto nella tua carriera, cioè non è una dal dopoguerra famoso che è diventato un po' la pietra miliare di riferimento, è probabilmente la più grave caduta pubblicitaria della storia dei media mondiali? Assolutamente sì, non si era mai verificato di questa intensità e non si era mai verificato a livello globale, ovvero in quasi tutti i paesi, con rarissime eccezioni, in quasi tutti i paesi del mondo il rallentamento degli investimenti pubblicitari è decisamente pesante. Anche in paesi, se prendiamo Cina e India, di cui si parla sempre come economie emergenti in tassi di crescita impressionanti, il primo quarter del 2009 la pubblicità ha rallentato moltissimo in alcuni settori, ha rallentato la crescita in alcuni settori, come per esempio l'automotive, quindi il settore dell'automobile, addirittura dei segni negativi pesanti. Quindi è la prima volta che si verifica così intensa e così distribuita su tutto il pianeta. Dal punto di vista invece dei media, c'è stato un media, che ne so, la televisione piuttosto che la carta stampata, che ha sofferto meno o particolarmente? Quello che noi osserviamo è che, come in altre crisi meno importanti ma comunque crisi e quindi flessione del mercato, un fenomeno ricorrente è che gli investimenti tendono a concentrarsi un po' di più su quelli che vengono ritenuti mezzi, passatemi il termine, più sicuri, ovvero i mezzi dove la conoscenza del funzionamento del mezzo stesso è più nota. Questo vale per la televisione. Certamente. In Italia la televisione sta rallentando decisamente meno di quanto stia rallentando ad esempio la stampa, che ha tassi di flessione purtroppo vicini al 25 e anche 30%. Fatta questa doverosa premessa sulla crisi e sull'impatto sulla pubblicità, mi chiedo se è possibile, ovviamente, questo farlo, quindi fuori dalla contingenza, valutare i cambiamenti nel mondo della pubblicità in vista e in funzione di quello che noi chiamiamo economia sociale. C'è uno spostamento che si intuisce sotto appunto gli stravolgimenti della crisi globale, che stanno spostando la massa di comunicazione pubblicitaria da un media, la televisione, la stampa, quelli classici, verso i mondi digitali? Questo è una sensazione, è una valutazione che puoi fare? Assolutamente sì, io la terrei in ogni caso svincolata dalla crisi, nel senso, la rivoluzione mediatica a cui stiamo assistendo ancora una volta, non solo a livello locale ma sta avvenendo in tutto il mondo. La rivoluzione mediatica è veramente una rivoluzione, è violenta, cambiano i rapporti di forza tra i mezzi, la tecnologia propone e impone cambiamenti importanti sulla struttura dei media, e questo è sostanzialmente una dinamica svincolata dalla crisi. La crisi in alcuni casi, e mi riferisco per esempio alla stampa, sta accentuando le problematiche che già la stampa aveva in un contesto in cui l'online vede progressivamente sostituirsi, comunque sovrapporsi in maniera importante soprattutto alla stampa, quindi creando alla stampa dei problemi non indifferenti. È sotto gli occhi di tutti il passaggio progressivo di molte testate dalla carta all'online, con sicuri benefici in termini di costi, in termini di risparmio di carta, ma con non corrispondenti benefici in termini di migrazione di investimenti dalla stampa all'online. In altre parole, l'online raccoglie molto meno pubblicità di quanto lo raccolga la stampa, e quindi alla fine questo crea problemi per l'industria, per i publisher, per gli editori, che stanno ovviamente cercando soluzioni e business e modelli di business che siano compatibili con questa rivoluzione importante. Per tornare alla domanda, quindi è vero, c'è una migrazione importante di investimenti tra mezzi. Quello che noi misuriamo maggiormente è proprio questo osmosi dalla stampa in direzione dell'online. Grazie Paolo Duranti. Dice bene l'amministratore delegato di Nielsen Media Research: gli editori vanno cercando nuovi modelli di business, perché lo scenario sta cambiando, gli stili di vita e quindi di consumo stanno cambiando. Noi sosteniamo con Ferribot verso un'economia sociale più consapevole e meno compulsiva. Comunque Enrico Finzi, presidente di Astra e anche presidente dei tecnici pubblicitari, buongiorno, eminente esperto, forse l'esperto di pubblicità e di consumi per eccellenza, cambiano i modelli di business, e questo, come dire, risulta dalle valutazioni sulla reputazione della pubblicità in Italia, è così, anche la gente percepisce diversamente il messaggio? Assolutamente sì. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Non legherei tutto alla rivoluzione tecnologica, che certo è un acceleratore. La crisi della comunicazione pubblicitaria viene da molto più lontano. Anche prima della rivoluzione del digitale alcuni limiti erano emersi. In Italia la pubblicità è troppo simile, troppo omologata, poco creativa, per motivi che eventualmente potremo vedere, e meno consona ai bisogni della gente. E difatti un'analisi che abbiamo fatto tra un investimento pubblicitario fatto all'inizio del 2008 e uno fatto prima della crisi del 92, nel 1991, mostra che il ROI, il return on investment, il ritorno dell'investimento in comunicazione pubblicitaria era dimezzato in meno di 20 anni, e cioè ci voleva più o meno il doppio dei soldi deflazionati per ottenere lo stesso risultato in termini di notorietà, che so, della marca, di apprezzamento della marca e di stimolo al desiderio di provare o di acquistare il prodotto. Questo è avvenuto perché c'è un sovraffollamento dal punto di vista del messaggio pubblicitario, o anche perché il consumatore è, come dire, meno, è più smaliziato, o tutte e due? Ma i motivi sono diversi. Da un lato la pubblicità è troppa, e questo è un limite a se stessa, ovviamente. Dall'altro lato, come dicevo, c'è stata una progressiva caduta della creatività, quindi della distintività dei messaggi. Uno, perché c'è un gran rumore di fondo; due, perché le aziende spesso non hanno il coraggio di scegliere la via nuova, la via della rottura, e visto che mi occupo di ricerche aggiungerò che spesso le ricerche sulla pubblicità fanno male alla pubblicità, perché la gente tende ad apprezzare quella a cui è abituata, e quindi ciò penalizza l'innovazione. Il terzo motivo è la esagerata televisizzazione della pubblicità, che in Italia è massima, il che fa sì che molti mezzi cosiddetti minori siano stati ancelle della creatività televisiva. In sostanza, si prende un frame della televisione e lo si mette sul quotidiano o in pubblicità esterna, ma a mezzi diversi corrisponde un'efficacia diversa. E poi forse c'è anche il fatto che i pubblicitari e tutti i comunicatori sono pagati meno, molto meno, c'è stato un tracollo dei loro redditi, il che importa poco se parliamo dei loro consumi personali, importa molto se è vero, come è vero, che moltissime agenzie hanno smesso di investire in ricerca e sviluppo, nella loro innovazione, da qui la pappa indistinta che non funziona. Tutto questo va avanti dall'inizio degli anni 90, lentamente, e oggi la tecnologia dà, come dire, la spallata. È una crisi che veniva da lontano. E l'ultimo ingrediente potrebbe essere poi anche la globalizzazione, per cui le campagne spesso sono campagne globali, arrivano dagli Stati Uniti o dall'Australia e vengono intruppate nei nostri palinsesti. Lo si vede, è abbastanza interessante il risultato di una elaborazione che noi abbiamo fatto. Noi facciamo, come tanti istituti, copy test, e cioè ricerche sulla pubblicità, e chiediamo agli spettatori, ai consumatori, di dare un voto al singolo spot. Ci è venuta in mente un'idea non banale. Abbiamo fatto un'analisi di tutti i voti dati in 20 anni. Beh, sono venute fuori due cose. Da un lato il voto medio resta grosso modo costante, ma quello che è crollato è il voto massimo. Come dire, tutti finiscono per diventare discreti, ma in un mondo di discreti nessuno vince la gara per distacco, e specialmente i piccoli e medi utenti pubblicitari non internazionali hanno un grande bisogno, non avendo tanti soldi, di mettere in giro dei messaggi che si notino, che buchino, come si dice in gergo, e questo avviene sempre meno. In più, a proposito, la conferma di quello che dicevi, non sono pochi gli spettatori, i consumatori, i nostri intervistati, che hanno notato che molti filmati sembrano fatti con gente non italiana, e hanno pienamente ragione, perché si è semplicemente fatto un lavoro cosiddetto di post-produzione, cioè di traduzione, e poi in realtà le facce, gli ambienti, eccetera, non sono nostri, non sono riconoscibili, e quindi pappa indistinta planetaria. Grazie Enrico Finzi, presidente di Astra. Prima di passare, andiamo a guardare più da vicino proprio il mercato della comunicazione pubblicitaria delle automobili, di cui parliamo. Abbiamo parlato a lungo con Gianfranco Chierchini. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno. Amministratore delegato del Centro Studi Acinnova. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Ecco, Gianfranco Chierchini, buongiorno. Buongiorno. Appunto, siamo a Acinnova, che è una struttura dell'ACI Milano, che si occupa dell'Automobile Club di Milano. Centro Studi. Sì. Abbiamo parlato di pubblicità ai tempi della crisi, ma anche di pubblicità che cambia, perché cambiano i media. L'automobile è sicuramente un punto cruciale, sia per il peso che ha per insesti nelle statistiche di Nielsen, sia anche per la criticità che oggi rappresenta. Diciamo che la pubblicità sull'automobile tiene conto di tanti aspetti rispetto ad 10-20 anni fa, è profondamente cambiata. Oggi ci sono attenzioni sull'aspetto ambientale, sull'aspetto anche della sicurezza, magari più l'ambiente, meno la sicurezza ancora è un aspetto da affrontare, da capire, da propagandare meglio, anche se grossi passi avanti sono stati fatti. E il cittadino oggi fa anche conti fa anche valutazioni, grazie al messaggio pubblicitario, sul costo dell'automobile. Un'automobile che è compatibile con l'ambiente costa anche di meno, cioè il numero di chilometri che si fa con un litro è praticamente raddoppiato nel giro di 20 anni, il numero di CO2 che viene emesso dal tubo di scappamento è molto molto contenuto, il PM10 con i nuovi sistemi di dispositivi, almeno il primario, è bloccato quasi completamente, e il cittadino comincia a rendersi conto di questi aspetti e incomincia, quando va ad acquisire una macchina, a porre queste domande. Spesso c'è molta confusione, però è un passo avanti. Abbiamo notato che c'è comunque ancora uno zoccolo duro di inserzionisti pubblicitari che ancora privilegiano la potenza del motore, l'accelerazione da 0 a 100 km orari piuttosto che la capacità di performance. Questa è una vecchia storia che ha sicuramente condizionato molto chi acquista gli automobili, e che oggi invece sta crollando. Sì, oggi sta molto molto diminuendo, anche se è vero quello che dicevi tu adesso, ci sono ancora pubblicità che danno la sensazione della potenza della vettura in luoghi sconfinati, liberi, l'avventura, eccetera eccetera. Sono sempre minori queste pubblicità, sempre di più si guarda, come dicevo prima, questi aspetti e ambientali e anche di sicurezza, e si dà l'immagine della felicità che si viene trasmessa dalla famiglia media quando è all'interno del proprio abitacolo, ricco di comfort. Ecco, il comfort è un aspetto su cui la pubblicità bada molto, e ricreare l'ambiente domestico, il focolare domestico, sarebbe detto una volta, nell'ambito dell'abitacolo, con televisioni, con sistemi satellitari, con cruscotti super intelligenti, forse fin troppo intelligenti rispetto alla capacità di gestione da parte del cittadino medio, dell'utente medio. C'è un amico che non cito, perché fra l'altro comunque il suo è un ragionamento di buon senso e non da esperto, che dice: fin quando non sarà di moda l'automobile che inquina meno, che è più sicura, non ci sarà un vero e proprio mercato. La sensazione è che questa moda, fra virgolette, sia arrivata. È così anche dal vostro punto di vista? Direi che, diciamo, sì, è arrivata. La titubanza è il discorso dell'idrogeno, nel senso, dal tubo di scappamento esce acqua pura e il leprotto succhia, si disseta lì. Allora, questo non c'è ancora, ma detto questo ci sono sistemi di energia, di carburanti alternativi proprio tradizionali messi in rete, penso al metano, penso al GPL, o di sistemi di vetture con motorizzazione ibrida intelligente, nel senso che c'è un computer che comanda quando far andarlo a benzina o a diesel e quando farlo andare col motore elettrico, e siamo a livelli di 20-25 km con un litro di benzina in ambito urbano. In autostrada le cose un pochino sono diverse, ma rispetto all'ambito urbano, dove avviene il 75% di tutti gli spostamenti del paese Italia, è nelle città che ci si muove. In autostrada le autostrade sono sempre piene, ma è un'altra cosa, gli spostamenti continui avvengono in ambito urbano, e il risultato qui è molto notevole. Il risultato molto notevole anche dal punto di vista del portafoglio, nel senso che il GPL, il metano e queste forme di energia alternativa, questi investimenti sono molto utili dal punto di vista economico, e quindi l'economia individuale e gli aspetti ambientali si coniugano, e quindi noi come Automobile Club vediamo la cosa abbastanza positivamente. Bene, speriamo che questa tendenza si riaffermi. Grazie Gianfranco Chierchini. Che la tendenza si riaffermi è certamente, come abbiamo capito chiaramente, anche un compito dei media, un'opportunità dei media e sicuramente una chance per la pubblicità. Paolo Iabichino, buongiorno Paolo. Buongiorno. È direttore creativo di Ogilvy One, che è una grande agenzia internazionale mondiale. Ed è qui perché noi pensiamo che lui stia interpretando nella maniera più, credibile e soprattutto facile da comprendere il nuovo mondo della pubblicità, dell'economia sociale che noi andiamo propagandando. Tu l'hai chiamata invertising, cioè un gioco di parole dall'advertising all'invertising. Cominciamo da qui. Sì, cominciamo. La riflessione a cui sono arrivato con l'invertising è una riflessione che in realtà, per quanto riguarda il mestiere della pubblicità, è iniziata qualche anno fa. Io ho cominciato a vedere che alcune campagne, non solamente quelle dell'agenzia all'interno della quale lavoro, ma anche quelle messe in atto da altri colleghi, devo dire, ahimè, più all'estero che in Italia, avevano dentro un seme nuovo di comunicazione che faceva fare al nostro mestiere un percorso assolutamente rovesciato rispetto a quello tradizionale. Cioè, esistono delle campagne capaci di attrarre pubblico anziché mirare messaggi indistinti a una massa di persone. Diciamo, sì. Questo è reso possibile evidentemente dalle tecnologie digitali, ma quello che fa appunto invertising è quello di sforzarsi di superare il ricatto esclusivo della comunicazione in rete, per fare in modo che anche i media tradizionali si sforzino di utilizzare un linguaggio diverso e quindi di diventare dei catalizzatori di attenzione piuttosto che degli invadenti interruttori di programmazioni televisive, piuttosto che addirittura agenti di inquinamento visivo, come è stata considerata la fissione in San Paolo a Brasile, laddove il sindaco appunto di San Paolo ha proibito a manifesti, paloni, poster eccetera di essere affissi in città. Una forma di inquinamento è considerata tale. Ecco, detta da un pubblicitario, questa cosa è importante. Noi, per esempio, cioè Ferribot agisce in un territorio che qualifica due forme di consumismo, quello compulsivo e quello consapevole. Compulsivo della serie: tutti bombardati e tutti comprano, la brillantina che nessuno ha mai capito a cosa servisse. Tu, quando dici attrarre, vuol dire interloquire con il consumatore, quindi sì, quello è consumismo consapevole. Sì, diciamo che più sì, è una forma di consumo consapevole laddove le marche, le aziende imparano a mettersi in relazione con persone che chiaramente devono essere considerate innanzitutto degli interlocutori e non dei semplici bersagli. È chiaro che attraverso internet tutto questo è straordinariamente possibile. Però è altrettanto vero che se ci sono delle marche capaci di innestare questo nuovo cortocircuito, anche una fissione può non essere inquinante e può diventare per esempio un manifesto interattivo capace di recepire un SMS e di restituire per esempio in tempo reale quello che la persona in quel momento gli sta comunicando. Quindi è una persona che si ferma davanti a un manifesto, il manifesto parla con lui e lui parla con il manifesto pubblicitario. Sto raccontando una campagna di affissione che è andata in scena a New York, che è stata firmata da BBC e che 2 anni fa ha vinto anche un Leone a Cannes. Gli stessi billboard interattivi sono stati fatti da Unilever con Dove addirittura un paio di anni prima di BBC. Un'ultima battuta, Paolo. Questo è possibile se l'azienda e il pubblicitario, il creativo, l'agenzia vanno nella stessa direzione. Questo non sempre si verifica nella pubblicità. No, questo è possibile se creativi e azienda vanno nella stessa direzione del consumatore, perché se vogliamo che un consumatore si fermi a parlare con i nostri annunci pubblicitari, noi dobbiamo essere rilevanti e credibili prima di tutto, quindi dobbiamo lavorare in profondità sugli insight, dobbiamo capire esattamente cosa le persone in quel momento hanno bisogno che la pubblicità racconti. Grazie Paolo, ti devo interrompere, siamo in chiusura, grazie, ci sentiamo sicuramente presto. Alberto Conti è in linea, è presidente di Pubblicità Progresso, di Fondazione Pubblicità Progresso, e in questa grande buongiorno Alberto. Buongiorno, buongiorno. In questa grande bailam di crisi e di internet e di digitale, dico, non è che ci va di mezzo la Pubblicità Progresso, che è una parte importante della storia della comunicazione di questo paese, non è che è troppo schiacciato, gli spazi mancano? No, dunque, allora, innanzitutto da parecchio tempo abbiamo cominciato a fare anche noi delle campagne di comunicazione integrata, dove la TV è solo costituisce una parte, poi molto spesso c'è un sito dove si vanno a cercare le informazioni, si fanno eventi, quindi direi che spesso abbiamo usato le TV musicali per veicolare delle clip musicali con dei contenuti sociali, per esempio per la campagna sugli incidenti sul lavoro, oltre che un sito di lavoro sicuro abbiamo stampato in milioni di copie insieme all'INAIL un piccolo decalogo in 8 lingue destinato a tutti i lavoratori, soprattutto gli immigrati, che parlano diverse lingue, con le norme principali sul lavoro, insomma, quindi diciamo c'è una deterevisizzazione, diciamo, sì, sta favorendo assolutamente, diciamo da parecchio tempo oramai la stessa, perché in fondo le stesse tecniche che usa la pubblicità commerciale sono le tecniche che usiamo noi per la pubblicità sociale. È pur vero, possiamo dire, come fenomeno, mentre la televisione e i siti internet, diciamo gli editori internet, sono stati molto prodighi di spazi e non hanno mai interrotto, anzi hanno anche aumentato, la stampa ha drasticamente ridotto gli spazi a disposizione, perché la stampa ha dei problemi di fogliazione eccetera eccetera, e per cui noi ci vediamo ridurre, ma al di là di questo aspetto contingente legato alla crisi di un mezzo che quest'anno fa meno 40 di raccolte, quindi sarà un dramma per moltissimi editori, e lo è. Dal punto di vista della diversificazione delle attività di comunicazione siamo già sul pezzo da molto tempo. Non so, posso fare un altro esempio? La campagna che abbiamo fatto a favore dei disabili, che è nata commissionando addirittura ad hoc una canzone a Lucio Dalla, il quale c'era scritta, poi ci abbiamo girato sopra un videoclip, poi abbiamo chiesto a 2 scrittori romani molto noti che tengono un corso di scrittura di far fare ai loro studenti 20 racconti sulle 20 disabilità diverse. Il segretariato sociale della RAI ha fornito i materiali scientifici, questi racconti sono stati messi su internet, noi abbiamo trovato da grandi ditte come Microsoft che ci ha regalato le PlayStation, la Nike, dei insomma, regali per una i ragazzi mega campagna. Che partecipassero a un concorso, che quindi leggessero e dopo votassero i racconti che sono messi su internet, i racconti sono poi raccolti in un libro multimediale perché conteneva il DVD, insomma ne abbiamo fatto di tutto e di più, e quindi voglio dire, le attività di comunicazione integrata anche nel campo del sociale, se chi è capace, ecco, sono molto. Tu sei una persona, tu vuol dire, è una storia incredibile, fra le altre cose anche consigliere d'amministrazione della RAI, quindi conosci molto bene il mezzo televisivo, penso che tu li conosca tutti. Hai la sensazione che noi Ferribot è in viaggio verso l'economia sociale, che questa economia sociale possa avere nel mondo digitale tutto quello che il mondo analogico gli ha negato, e cioè una grande capacità di dialogo? Tu hai questa sensazione, da grande vecchio, mi si passi il termine, della comunicazione in Italia? Ma sicuramente la possibilità di interagire aumenta le opportunità, soprattutto nei confronti di chi è solo, nei confronti di chi invece vuole avere più informazioni, tant'è vero che molte aziende non hanno calcolato che il passare dalla comunicazione da una via a quella due vie ha dei costi enormi, perché a un certo punto la gente, una volta che è interpellata e addirittura è coinvolta su determinati progetti anche di responsabilità sociale di impresa, comincia a scrivere, a telefonare, a partecipare, e questo vuol dire che dall'altra parte del filo o dell'internet ci deve essere qualcuno. Non si accontentano mica più, come sta succedendo con i grandi provider telefonici, di una voce automatica sintetizzata che ti dice schiaccia 1, schiaccia 2, che c'è 3, vogliono parlare, discutere e fare. Quindi ci sono delle grandi opportunità, non so se per ciò stesso, per il fatto che i mass media cambino pelle e si articolano in maniera diversa, questo vada a favore. Va a favore del consumatore, dell'utente finale, il concetto che egli può intervenire molto di più di prima. Grazie Alberto Conti, tutto chiaro, grazie, bellissima storia. Fra parentesi, dobbiamo chiudere, ma ci risentiremo. Questo è Ferribot, io sono Enzo Argante, il traghettatore, alla prossima puntata.